Io direi che adesso si può aprire il dibattito e se non ci sono subito domande al volo, ne faccio una io intanto. E faccio la stessa domanda a entrambi. Cioè, ovvero, il fatto di dire che ci sia in qualche modo, soprattutto magari nella tua relazione Matilde, questo è più forte, ma secondo me c'è anche un po' nell'esperienza del progetto Eva, ovvero il fatto di rispettare, richiamare comunque un senso dell'abitare precedente, che sia una cultura, che sia un progetto, quando tu dicevi prima il progetto di appunto la rinascita di Pesco Maggiore veniva prima del terremoto, no? Questo tentativo quindi di rispettare questi elementi, che sono in particolar modo elementi culturali, ed è un fattore fondamentale. Come però possiamo problematizzare questo rapporto? Perché c'è un'altra deriva, una deriva soprattutto culturale che c'è in Italia, che c'è in Occidente, che è quella del locale. Ovvero quella di definire il locale, che è una serie di relazioni, culture, è un territorio, è una stratificazione, che rischia però di diventare un fossile, una strettoia all'interno del quale un intero territorio si vuole descrivere completamente. Quindi la cosa che io volevo chiedervi, in Sri Lanka, questa attenzione nei confronti di elementi culturali precedenti ha subito magari delle modificazioni, ma che sono diventate modificazioni soggettive, assunte dagli stessi abitanti che hanno colto questa occasione di ricostruzione anche per modificare alcuni elementi. Quindi diventa un gesto di libertà, che diventa anche un gesto di libertà che gli permette di andare oltre quello che è l'immaginario collettivo del locale, e così anche a Pesco Maggiore. Il progetto Alma, mi riferisco a questa cosa qui, no? Cioè, è vero che c'è stato un recupero di una dimensione di senso precedente, non svuotare il paese, però mi sembra che ci sia anche un progetto di libertà enorme che vada oltre questa cosa qui. Ecco, quindi, come stanno insieme queste due dimensioni? Cioè, mi viene in mente una frase molto bella di Foucault, che dice l'architettura può essere un'espressione di libertà se l'architettura è in grado di interagire con quelle che sono le pratiche di libertà dei soggetti. Ecco, come stanno insieme queste due dimensioni qua?